Forse non ve ne sarete accorti, ma la settimana trascorsa è stata segnata da un evento politico a dir poco clamoroso. E non alludo naturalmente all'elezione della bicamerale, perché so bene come tutti voi che di bicamerali nella nostra storia parlamentare ne hanno già elette almeno un paio e nessuno ha lasciato traccia di sé. E poi mi riferivo a un evento di livello internazionale. E tra gli eventi internazionali clamorosi non vanno certo annoverate le polemiche sulla missione della lira all'Unione Monetaria, nei vari pellegrinaggi compiuti a Bonn dai principali dirigenti politici del paese, che ai tedeschi l'idea di mettersi sullo stesso piano di noi cisalpini non passi nemmeno per l'anticamera del cervello è nota da tempo, e quanto all'usanza dei politici italiani di recarsi in devoto ossequio nelle case dei potenti, da quando l'ha inaugurata De Gasperi nel 1948 con la sua visita a Washington, si è generalizzata a tal punto che l'unico dato veramente clamoroso sarebbe che qualcuno se ne astenesse. Adesso vanno in Germania, non più negli Stati Uniti, ma la differenza non mi sembra particolarmente emozionante. E a proposito di Stati Uniti, io non alludevo neanche al discorso di Clinton sullo Stato dell'Unione, che mai come quest'anno è apparso a tutti bolso insignificante. No, io parlo di una cosa veramente importante, la decisione della Duma della Federazione Russa di non restituire alla Germania il tesoro di Priamo. È una decisione la cui importanza naturalmente fa il paio soltanto con quella del governo tedesco di chiederne a suo tempo la restituzione. Come certamente saprete, il tesoro di Priamo, che poi proprio di Priamo non è, perché è stato rinvenuto in uno strato archeologico più antico di quello che oggi consideriamo corrispondente alla Troia Omerica, ma sono minuzie queste, il tesoro di Priamo si trova a Mosca, perché ce l'ha portato l'Armata Rossa, dopo averlo prelevato nel 1945 a Berlino, dove era giunto una settantina d'anni prima per un atto di liberalità dello Schliemann, che naturalmente l'aveva trovato tra le rovine di Troia, da lui stesso scoperte e scavate. E dal punto di vista archeologico, naturalmente, non ci sono motivi particolari per cui debba essere custodito a Mosca piuttosto che a Berlino o quanto questo altrove, no? I tesori del passato, siano reperti archeologici o opere d'arte, sono patrimonio di tutta l'umanità, anche se taluni settori di umanità vi considerano beni propri e si ostinano a passarseli di mano mediante le identiche procedure con cui passano di mano tutti i beni, come a dire con la forza del denaro e con quella delle armi. La logica per cui gli ori troiani sono a Mosca è la stessa in base alla quale i marmi del Partenone stanno a Londra, la nicchia di Samotracia è a Parigi, la Vergine delle Rocce a Londra e l'obelisco di Piazza San Pietro a Roma. Oggi è unanimemente accettato il principio per cui quei beni particolari che si scavano sottoterra aspettano il paese entro i cui confini sono rinvenuti, ma è un principio stabilito un bel po' dopo lo Schliemann e non ha valore retroattivo. E poi altamente discutibile. Nel nostro caso potrebbe essere invocato dalla Turchia, per esempio, ma è ovvio che i turchi, che all'epoca di Priamo non erano stati neanche inventati, non hanno gran titoli per considerarsi eredi dei troiani o del popolo ignoto che prima dei troiani abitava la pianura dello Scamandro, figuriamoci i russi o i tedeschi. Eppure i tedeschi vogliono indietro il tesoro di Priamo, contestano l'ultima tappa del processo storico che ne ha determinato la collocazione nella capitale russa. Dicono che gliel'hanno portato via con la forza e che così non vale. È interessante, no? Perché visto che formalmente quel tesoro i russi, e allora veramente erano sovietici, ma lasciamo perdere, i russi se l'avevano preso come bottino di guerra, questo significa che l'attuale governo tedesco in sostanza nega valore sotto questo aspetto a tutti agli atti con cui si è conclusa la Seconda Guerra Mondiale. Ed interessante è che sappiamo che questo aspetto non è unico, no? Che non pochi tedeschi, pur nella gioia della ritrovata unità, non si sono rassegnati alla perdita della Slesia o della Prussia orientale, ma visto che nell'attuale situazione mondiale è difficile che Kohl possa richiedere la restituzione di Danzica o di Königsberg, su cui pure avrebbe qualche titolo in più che sul tesoro di Priamo, e qualcuno deve aver pensato che tanto valeva cominciare con quello. L'importante, come noto, è stabilire i principi. Poi si vede. La notizia importante è che i russi hanno rifiutato, che non è così ovvia come potrebbe sembrare, perché visto che la questione di natura eminentemente simbolica e un simbolo è tale solo per chi tale decide di considerarlo, i parlamentari della Duma, che sanno benissimo come per la Russia oggi sia essenziale tenersi buoni i tedeschi, potevano anche far finta di non accorgersene e di accondiscendere alla richiesta in nome della cultura o qualcosa del genere. Di fatto sembra che Yeltsin, che notoriamente è democratico, per cui di quello che delibera la Duma non se ne frega assolutamente niente, stia ancora pensandoci su. Ed è ovvio, perché anche per lui non potrebbe essere così facile restituire Königsberg se richiesto, ma qualche quintalata di oro e di pietre dure, ancorché 4 millenarie, se necessario può rinunciare benissimo. Ma per ora, pur tentato che sia, sembra che non osi farlo. E comunque, perché considerare la notizia importante? Beh, è importante perché, come hanno dimostrato le visibili vicende relative alla nostra lira, il grosso problema all'ordine del giorno oggi in Europa è quello dell'egemonia tedesca. È la prospettiva che anche nella costituenda Unione i membri non saranno precisamente tutti sullo stesso piano che qualcuno comanderà. Eppure essendo un problema grosso come una casa, perché se qualcuno comanderà qualcun altro ubbidirà ovviamente, tutti da un certo livello politico in su fanno finta di non vederlo, continuano a cianciare di rispetto dei parametri e simili baggianate, pur essendo perfettamente ovvio che anche se l'Italia centrasse tutti i parametri con largo anticipo e forte margine, se Kohl non sarà d'accordo, unità monetaria ce la sogneremmo. I russi, se non altro, si sono dimostrati capaci di badare alla sostanza. Abbiamo motivo per essergliene grati, sempre che Yeltsin non ci metta le mani, ovviamente.